che c'ho un casino, proprio la verità detta, c'ho proprio un disagio in garage. Meglia. E sabato forse devo andare a fare delle antenne. Tradicio? Sì, tradicio e tirare dei cavi che sono compromessi. Perlomeno compromessi. Boh, non lo so. Devo togliere dei cavi da possetto a possetto, che li vuole mettere nuovi. Sì. Purtroppo la roba è fatta, No, domani mi metto a posto il garage perché stavo facendo quel lavoro che ti ho detto. Però vediamo proprio un problema. Cioè non si può entrare, non si può entrare domani mattina, tanto domani ha messo pioggia, tutto il giorno. Domani ha messo pioggia tutto il giorno, forse anche da stanotte alle 4 iniziami. E tutta la via poi va. Ah sì, mi hai fatto una bella giornata oggi. Ma c'era quel caldo dell'acqua, c'erati. Domani probabilmente l'ha messa, eh. Me la fa. Quindi ne approfitto per installare il garage, tutto quanto, mi metto a posto tutte le cose. E niente. Ne approfitto per farmi quel lavoro, sennò. Vabbè, non riborso, non è mai che entra. Ho messo tutto così perché poi abbiamo dovuto fare l'installazione e ho mollato tutto. Sì, vabbè, ci vuole, così ordine. No, io mi ho approfittato a tagliare l'erba perché poi quando è bagnata è ancora peggio, quindi... E poi c'è un po' di pulizia, dai, un po'... Va bene, ci voleva. Allora. Dopo... Poi se sono libero lunedì sera mi metto e mi taglio un po' di roba, devo tagliare, raccogliere perché c'ho proprio la spiga fiorita in alcuni punti. Senti cosa c'ho in cento di casino. Hai sentito? Sì, ho sentito. Io per comodità ho cambiato. Sì. Dove sei? No, ho cambiato mic. Ah, ok. Non me ne sono accorto. Vabbè, forse perché ho alzato appena appena il tono della voce, magari si assomiglia all'altro. No, noti. Non... Io il giorno dopo dell'evento, degli eventi, sono sordo. Non è che sono sordo, non ho... Perdo la sensibilità nelle orecchie, mi rimane un giorno questa cosa. Ah, no, già va bene comunque, dai. No, per comodità, perché l'altro è un pochino più lontano, toccava schiacciare adesso spengo anche la batteria, come mi hai consigliato. Perché l'altro era con sinistro, adesso questo col destro. Sì, no, cosa la batteria è comodo, ti vedrai che... fatto io non ho capito perché quei microfoni non hanno fatto mai un tastino, un sacco a batteria, cioè cosa goccia con gli euro e 10 centesimi, no? Io fai lo stacco a batteria e uno il microfono lo spegneva, mettevo il tastino, non è off, cosa la batteria ti dura un'eternità e poi è meglio. Sì, diciamo la verità che voleva fatto all'interno della cassa con un tastino piccolino stesso, dal principio, dai, parlo dal principio però. Esatto, sì, all'interno anche da sotto e dietro. Poi con il tastino, on battery and off, boh, finito. Ed è un signore, lo potremmo vedere neanche 20 in più. Sì, vabbè. No, ma già va bene comunque, è un microfono che... a me, confronto al più 4 mi è sempre piaciuto, però il più 4 lo sto tenendo per l'HF, quindi non ho... Gli altri sono per le altre radio, sono più, come si dice, più spinti. Sì, io adesso spengo queste cose che a me perché mi sta un po' stressando, diciamo la bene la reserva microfono, bisogna confrontarlo con le modifiche che ha fatto con uno normale o con una delle modifiche standard, capito? E allora lei capisci quanto spinge. Ah no, vabbè, sì, dipende da cosa vuoi fare, perché uno magari vuole un diverso microfono, però con una parità di modulazione magari è uguale, dai. Sì. Cosa sarebbero provarlo giù, né? Quando io ti cambio l'antenna, spiega bene, la proviamo. O altrimenti fare un riduttore da Kenwood a Yaesu. Ma io ho un cavo, adesso non mi ricordo se era per... non mi ricordo, io ce l'avevo lì. Kenwood, devo guardare. Sì. Ma domani lo proviamo, ma domani se lo troviamo lo proviamo e vediamo un pochino cosa ne esce fuori. Sì, scusami, ma io spengo a chi, perché non sarei corretto nei tuoi confronti, mi sovo dormendo. No, ma vai tranquillo, non c'è problema, vai tranquillo. Sì, mi sovo dormendo, sono arrivato a capolinea. In 2 giorni ho dormito 4 ore, quindi non sono un po' confuso. La verità, sono un po' confuso, quindi mi devo mettere a letto. Ci ascoltiamo domani. Io qua alla radio sono acceso, tanto verso le 11:30, mezzogiorno, mi trovi dentro casa che preparo qualcosa. Anche se sta piovendo, ho il posto per prendere e farmi un arrosto, quindi riesco a farlo benissimo. C'ho la radio accesa domani mattina. Dai, grazie per le 4 chiacchiere, ci sentiamo domani. Buonanotte Tino, a te la correa familiare. E io ti ringrazio, vabbè, altrettanto, dai. Ciao, buonanotte, buon riposo. Ciao, buonanotte. Oh, mi so cagare i ginetti. Ciao. Io devo aspettare i ragazzi che rientrano, quindi devo andare a prenderli. Sì, no, io mi sto proprio addormentando. Sono arrivato. Ciao. ciao.